egli costruì un altare, invocò il nome del Signore e vi piantò la sua tenda. E i servi di Isacco vi scavarono un pozzo. Abimelech partì da Gerar e andò da lui con Nahuzat, suo amico, e con Picol, capo del suo esercito. Isacco disse loro: «Perché venite da me, visto che mi odiate e mi avete mandato via dal vostro paese?» Quelli risposero: «Noi abbiamo chiaramente visto che il Signore è con te, e abbiamo detto: si faccia ora un giuramento tra di noi, cioè fra te e noi, e facciamo un'alleanza con te. Giura che non ci farei alcun male, così come noi non ti abbiamo toccato e non ti abbiamo fatto altro che del bene, e ti abbiamo lasciato andare in pace. Tu sei ora benedetto dal Signore». E Isacco fece loro un banchetto, ed essi mangiarono e bevvero. La mattina seguente si alzarono di buon'ora e si prestarono giuramento reciprocamente. Poi Isacco li congedò e quelli si separarono da lui in pace. Quello stesso giorno i servi di Isacco gli vennero a dare notizia del pozzo che avevano scavato, dicendogli: «Abbiamo trovato dell'acqua». Ed egli lo chiamò Siba. Per questo la città porta il nome di Beersheba fino ad oggi. Or Esaù, all'età di 40 anni, prese in moglie Giudit, figlia di Beeri, Littita, e Basmat, figlia di Elon, Littita. Esse furono causa di profonda amarezza per Isacco e per Rebecca.